Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Le due solite informazioni di servizio. La prima è la mail per tutti voi, un abuso al giorno, @radio24.it. La seconda, classica anch'essa, è il rimando al mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore Online. Io aggiungerei anche una terza informazione di servizio, già che ci siamo, molto importante, soprattutto in questo periodo natalizio, dove magari la gente ha anche un po' più di tempo a disposizione per riascoltarsi le puntate delle trasmissioni mandate in onda da Radio 24. Basta andare sul sito www.radio24.it, avere accesso al mio programma, e da lì potrete, per ordine temporale e anche per oggetto, scaricarvi le puntate e riascoltarle. Se qualcuno l'avete persa, potete così farlo. Allora, alcune settimane fa ricorderete c'è stata una meritoria straordinaria, dico io, decisione di un liceo scientifico, il liceo Francesco Redi di Arezzo, per intitolare per un solo giorno, un gesto simbolico ma di grande importanza, il liceo al giocatore dell'Inter Balotelli, Mario Balotelli, grandissimo campione. Questo perché? Perché ovviamente era un modo come un altro per dire no al razzismo con i fatti e non con le chiacchiere. Allora, siamo in un periodo, appunto, come dicevo prima, di festività natalizie piene, quindi è giusto e doveroso riflettere con chi ha gestito questa iniziativa sul valore di quel gesto e soprattutto su quello che può nascere da questo seme. Ed è per questo che con gran piacere do il buongiorno al preside del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo, il dottor Claudio Sartori. Buongiorno Sartori. Buongiorno. Allora, la prima domanda che vorrei farle è questa: riflettori accesi quel giorno sul vostro liceo scientifico. Esatto. Cosa straordinaria, ma cosa è rimasto poi di quel riflettore acceso? Si è spento o avete continuato voi ad accenderlo? Dunque, mi consenta prima di chiarire un punto che mi sta molto a cuore. Prego. Noi non abbiamo inteso i ragazzi del consiglio d'istituto e del comitato studentesco, ed io non abbiamo inteso di concerto anche con i genitori e i docenti, perché nel consiglio d'istituto c'è stata unanimità per prendere questa decisione così provocatoria, no? Certo. Non abbiamo inteso proporre Mario Balotelli come modello per i giovani, come qualcuno lì per lì ha creduto e ha fatto anche una certa opposizione. Noi abbiamo inteso esprimere una protesta che fosse clamorosa, sì, ma anche netta, precisa, contro questa piaga del razzismo che ci sembra una cosa insopportabile. Assolutamente, cioè, doveroso. Sentendo dire che non esistono negri italiani, la cosa ci ha fatto venire il sangue agli occhi. Ammesso e non concesso, oserei dire io, che Mario Balotelli non sia poi in realtà un simbolo di comportamento anche per i giovani, perché è vero che è uno scapestrato in campo, ma è viva Dio la genialità e la freschezza di un ragazzo di 19 anni, ma vogliamo lasciarla a questi giovani? Che cosa ne pensa lei? Esatto, la penso proprio così, questo era il nostro pensiero. Abbiamo di fronte un ragazzo che avrà tempo di maturare, qualche suo atteggiamento è discutibile, ma a noi non interessava, a noi interessava dare un messaggio. Qualcuno ci ha detto: perché non avete intitolato la scuola per esempio a Martin Luther King? Ma per l'amor di Dio, per carità, centinaia di scuole intitolate, certo, a Martin Luther King, la notizia non sarebbe arrivata nemmeno fuori dalle mura della città. Assolutamente, modo, assolutamente. Ma lei ha fatto benissimo, io sposo in pieno questa vostra scelta, sposo anche la tesi di chi vuole Balotelli in nazionale, subito, per un motivo: perché è un grandissimo giocatore, del colore della pelle non me ne frega assolutamente nulla. Niente. Detto questo, ma appunto, torniamo alla cosa più importante: questa iniziativa, che strascico ha avuto? Che cosa avete pescato con la vostra rete a strascico dopo quell'iniziativa? Intanto abbiamo incassato una serie di qualche lettera, perfino una anonima contraria, abbiamo capito benissimo da che fonte poteva venire questa lettera anonima contraria, però abbiamo incassato tantissime lettere di plauso, perché tutti hanno veramente capito che la solita ramanzina sarebbe stata perfettamente inutile. In questo modo invece siamo arrivati. Le conseguenze sono state queste. Intanto noi facciamo una grossa attività, per esempio c'è un'attività contro la mafia, per esempio noi ospitiamo a Re di d'Arezzo da anni la carovana antimafia, ed è una cosa che ai ragazzi interessa molto, ma è venuto fuori da questa esperienza e i ragazzi hanno deciso che ogni mese indicheranno un personaggio simbolico al quale titolare la scuola. Questa è una cosa che mi è molto piaciuta e mi ha fatto capire che i ragazzi veramente a volte si sono più avanti, molto più avanti di quanto noi possiamo pensare. Ecco, per esempio, il prossimo personaggio l'avete già identificato, individuato? Non l'avete ancora individuato? Però c'è questa intenzione e mi ha fatto molto piacere. Certo, probabilmente non la stampa non vi continuerà a seguire come è successo con la prima volta, ma l'importante, a mio giudizio, è rompere il ghiaccio dell'omertà, della stupidità razzista e via di... Ecco, è questo quello che conta. Vedi, se mi consente un'altra cosa importante. Molti si sono fissati su questi difetti del Balotelli, no? La cosa che mi ha colpito è che nella scuola in cui noi per definizione insegniamo ad essere critici, a scavare nelle cose, ad analizzare eccetera, nessuno ha mai pensato di scavare sulla personalità di questo ragazzo. C'è stato un bel articolo a firma Scacchi sulla Repubblica, però la stampa francese, l'equipe francese che sono venuti anche loro al nostro liceo a parlare, il corrispondente italiano dell'equipe è venuto, è stato con noi una mattinata intera, è stata una mattinata gradevolissima. Hanno indagato sulla personalità, hanno visto che storia c'è dietro le sue spalle. Assolutamente. Di questo ragazzo. Ma io ricorderei anche uno splendido articolo di Gian Antonio Stella, che ha messo in evidenza il motivo per il quale, come dire, spesso si levano questi cori razzisti contro i giocatori di colore e in particolare contro Balotelli. Lo capisco perché in particolare contro Balotelli, perché Balotelli non è il nero che viene, vince, piglia applausi e poi se ne va. Lui è il nero che viene, è bravo, piglia applausi e intende rimanere. E rimane. Anzi, vuole rappresentare l'Italia. È questo che non va giù a certa gente. Ed infatti questo è la sintesi. Sono d'accordo con lei. Ecco. Lui deve assolutamente rappresentare l'Italia. Assolutamente. Deve essere assolutamente il nazionale. Assolutamente, questo era la tesi di fondo anche di Gian Antonio Stella. Il fastidio di molti italiani è quello di non capire che l'Italia del futuro, ma direi assolutamente del presente, è un'Italia multirazziale. Io le vorrei chiedere ancora questo, signor Preside. Voi avete ragazzi, diciamo così, di altra nazionalità, di altre etnie nella vostra scuola, indipendentemente dal colore della pelle? Avete quelli che gli stupidi considerano diversi, e se sì, come vengono integrati, se ne hanno bisogno, all'interno del vostro liceo? Vede, le rispondo molto facilmente, perché essendo la mia, appunto, un liceo scientifico, è una scuola dove chi ci viene ha già un'idea di quello che vuol fare, una preparazione, insomma. È raro che un ragazzo di altra nazionalità venga da noi e fallisca, perché chi viene da noi ha l'intenzione e la volontà e la capacità di andare avanti. Noi abbiamo romeni, abbiamo del Bangladesh, abbiamo tanti, io credo se ne siano almeno una trentina, e soltanto pochissimi, uno o due, hanno dovuto cambiare scuola per seguire poi loro inclinazioni. Certo. I ragazzi che lavorano da noi sono integrati perfettamente, lo posso dire senza tema di smentire. E Arezzo anche Arezzo risponde allo stesso modo, intendo dire la collettività aretina, una collettività permeabile o impermeabile al nuovo? Permeabile, no? Non ci sono vengono fatti consistenti nella città, la comunità del Bangladesh, la comunità romena che è fortissima ad Arezzo, vivono tranquillissimamente, non mi risulta che ci siano mai stati problemi. Bene, fa piacere. Qualche cosa, sì, qualche ristetta una sera, ma sì, questo è normale, accade anche nelle famiglie italiane. ordinaria amministrazione. Bene, preside, io la ringrazio per questo suo intervento e quindi lunga vita a queste vostre iniziative, lunga vita all'italianità di Mario Balotelli. Molto e perché bello. No, in nazionale subito. Vedi, anziché santo subito, nazionale subito. Prego, prego. La sorella, che mi pare si chiami Cristina, la sì, sorella è una giornalista di Radio 24. Ecco. Ah, senti, alla Equipe, e ci ha colpito questo molto, alla giornalista dell'Equipe ha dichiarato che il bambino non riusciva a dormire se non aveva la mano della mamma che lo teneva, e addirittura per farsi accettare faceva il buffone nella scuola elementare. E questo a noi è apparso, io l'ho scritto in una circolare che ho mandato per la classe, è apparso agghiacciante questo, che certo, un bambino certo. debba fare il buffone perché assolutamente deve essere accettato. Assolutamente. Quindi noi lo dobbiamo accettare e lui ci deve addirittura rappresentare. Assolutamente d'accordo con lei. Nazionale. Signor Presidente, la ringrazio e la saluto, buona giornata. Buona giornata anche a lei, arrivederci. Grazie, saluti ovviamente in regia Carmelo Lauricella, in studio ad Elisabetta Fusconi, da Roberto Gallullo una buona giornata.